Nonostante tutto, ci sei dentro me. M'ha lasciato un segno, ma che non va più via. Se ripenso a ieri, soffro un po' perché tu sei qui, mia bella. Che si mette tra di noi, sembra un muro che poi non finisce mai. Sembra inutile passarci dentro e poi ci taglieremo le popolo. Non è stato il mondo, cambia aspetto tu. Stessa donna, sempre poco e più. C'è il mare che ci bagna l'anima. Sembra facile pensare che sarà un aiuto per trovare delle idee, per scrivere canzoni. Yeah.